Eccoci qua in lieve ritardo, ma dovevamo sistemare diverse questioni tecniche trovate qui in radio. 21:54, Radio Onda Rossa 87.9 in modulazione di frequenza. Disorder da adesso sino alle 23:30 circa. 0649-1750 il contatto telefonico. Sito internet anche per lo streaming che è www.ondarossa.info. Per le comunicazioni mediante posta elettronica ondarossa@ondarossa.info e per chi fosse interessato o interessata, domani ci sarà la playlist, il podcast. Naturalmente sia sul sito della radio sia sulla pagina Facebook Prove Tecniche di Trasmissione /Disorder. Nature and Organization, progetto di Michael Cashmore, e da stasera andiamo un po' anche a studiare il secondo lavoro che uscì nel 1998 attraverso la Snow Leopard Records e probabilmente la sua etichetta. Un disco che si intitolava That Is Snow Leopard Winter. Ci andiamo ad ascoltare la quinta e la sesta traccia. Ancora Nature and Organization da questo That Is Snow Leopard Winter, un album sostanzialmente tutto pianistico, secondo album per lui, titoli privi brani privi di titoli.